Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, la nostra vita ha ripreso i suoi ritmi, magari ci interroghiamo in questo inizio d'anno come sarà quest'anno, soprattutto se l'anno che si è appena aperto sarà l'anno nel quale usciremo definitivamente dalla crisi. Per capire che cosa è successo nei due anni passati e quali insegnamenti trarre da quello che è successo, vi segnalo il libro di Tito Boeri, La crisi non è uguale per tutti, è pubblicato da Rizzoli, 220 pagine, 17,50 €. Tito Boeri è un economista, commentatore, è uno dei fondatori del sito La Voce e raccoglie in questo libro, rielaborandoli, alcuni interventi recenti con l'obiettivo di fare i conti sulla crisi per verificare quanto essa sia costata alla gente normale, non soltanto al PIL o alle banche, e che cosa ci abbia insegnato. Il risultato di questa ricerca appare a Boeri piuttosto netto. La crisi è stata una crisi fortemente differenziata, con effetti diseguali, e ha colpito soprattutto i giovani e il sud e ha prodotto un aumento delle diseguaglianze, tema questo che dovrebbe porre adesso al centro della politica l'attenzione verso le scelte da fare per rivedere profondamente i meccanismi di protezione sociale. Ma facciamoci dire qualcosa di più dall'autore. Buongiorno a Tito Boeri. Buongiorno. Professor Boeri, come ho spiegato, questo suo libro rielabora alcuni contenuti già presentati in articoli pubblicati da lei nei mesi passati sui giornali. Ecco, quali sono gli elementi di fondo che emergono, con i quali possiamo commentare l'andamento della crisi e le prospettive di questa crisi per i mesi successivi? Ma quello che è successo è che l'Italia è investita da questa crisi in modo molto pesante, nonostante di partenza non avesse caratteristiche tali da far pensare che l'avrebbe subita così, in modo così intenso. L'Italia non ha vissuto crisi di grandi banche, né aveva una bolla immobiliare che scoppiando avrebbe poi causato effetti a catena come altri paesi europei o gli Stati Uniti. Eppure la crisi è stata molto intensa e ha avuto rapidamente effetti sulla vita delle famiglie, perché le famiglie soffrono la crisi quando cominciano a ridurre i consumi e perdono alcuni membri della famiglia, perdono il posto di lavoro. I dati sono da questo punto di vista brutti, perché effettivamente c'è stato un calo anche nominale dei consumi, quindi anche senza tenere conto dell'inflazione, nelle famiglie del Mezzogiorno i consumi sono calati. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le perdite invece sono state minori che in altri paesi, e questo è sicuramente un fatto importante e positivo. Tuttavia sono fortemente concentrate tra i giovani. Il rapporto tra il rischio di perdere il posto di lavoro per chi ha meno di 25 anni e il resto della popolazione in Italia è il più svantaggioso nel panorama dei paesi dell'OCSE, quindi proprio su di loro si è concentrata la perdita di posti di lavoro. Qui i dati sono molto pesanti, andiamo da riduzioni tra il 12 e il 15% tra coloro che avevano dei contratti a tempo determinato o erano nel parasubordinato. In questi segmenti del mercato i tagli all'occupazione sono stati molto consistenti. Lei insiste nel suo libro sul tema degli strumenti per correggere diseguaglianze che sono aumentate alla luce di questi dati che ci ha ricordato. Sì, purtroppo da noi succede che ogni recessione viene accompagnata da un incremento delle disuguaglianze e della povertà. Anche la precedente recessione, quella del 92-93, portò ad un incremento di circa un terzo della povertà. Il fatto è che non abbiamo dei sistemi di protezione sociale che in qualche modo siano proprio diretti a ridurre la povertà, cioè non abbiamo dei sistemi di reddito minimo garantito che impediscono a componenti della popolazione durante queste crisi di finire ad avere dei redditi al di sotto della soglia di povertà. Quindi questo ci espone di più agli effetti distributivi negativi delle recessioni. Di più abbiamo anche un sistema di ammortizzatori sociali che è inadeguato e che soprattutto copre poco i lavoratori con dei contratti temporanei, quindi questo è un ulteriore elemento che peggiora, diciamo, gli effetti distributivi della crisi. Lei ha scritto nel suo libro che forse perdiamo l'opportunità di dare un senso a questa crisi. Quale potrebbe essere il senso con il quale concludere in qualche misura positivamente, dare delle prospettive positive a questa nuova fase che si aprirà? La mia impressione è che la classe politica italiana faccia le riforme soltanto quando davvero si è in situazioni di grandi difficoltà. Era avvenuto nella crisi del 92-93, in cui ci fu una stagione di riforme molto importanti, questa volta invece non è successo. Che cosa andava fatto? Beh, credo che la cosa prima e prioritaria da fare era proprio quella di riformare gli ammortizzatori sociali, perché avevamo questo problema sociale molto serio di questi lavoratori che perdevano il posto di lavoro, che hanno perso il posto di lavoro, che non hanno ricevuto alcuna protezione sociale. Tra l'altro è un problema che rischia di avere tracce profonde anche in futuro, perché durante i periodi di disoccupazione i giovani che non ricevono gli ammortizzatori sociali, non sono coperti gli ammortizzatori sociali, non versano neanche i contributi per il sistema pensionistico. I giovani ormai sono interamente sotto il sistema contributivo, che fa sì che le pensioni che riceveranno in futuro siano proporzionate ai contributi che hanno versato durante l'intero arco della vita lavorativa. Ecco che quindi questi periodi di disoccupazione che i giovani hanno, tra l'altro in una situazione in cui comunque entrano nel mercato del lavoro in posizioni svantaggiate, con dei salari bassi, fanno sì che appunto il loro montante contributivo cresca molto poco, se non addirittura rimanga fermo, e quindi quando arriverà il loro turno di andare in pensione rischiano di trovarsi con delle pensioni che sono al di sotto dei minimi sociali. Certo, è un problema lontano nel tempo, ma è un problema a cui bisogna pensarci adesso, perché altrimenti avremo un problema sociale davvero molto grave in futuro. Grazie a Tito Boeri, buona domenica. Grazie a voi. Sulle ragioni che hanno provocato la crisi vi segnalo anche il libro di Franco Bruni, L'acqua e la spugna, i guasti della troppa moneta, è pubblicato da Università Bocconi Editore, 190 pagine, 15 euro. L'autore è un economista appunto della Bocconi, esperto di politiche monetarie, è sottotitolato appunto I guasti della troppa moneta. Infatti Bruni vuole spiegare le responsabilità delle banche centrali, con quella americana in primis, ma anche della Banca Centrale Europea, nel provocare la crisi, e lo fa col linguaggio semplice per farsi capire da tutti. I banchieri centrali, scrive all'inizio del suo libro, sanno di essere corresponsabili della crisi. Non lo dicono quasi mai ad alta voce, aggiunge, ma sentono la macchia sulla coscienza. In realtà è importante tenere presente questo errore per evitare il ripetersi degli stessi errori avvenuti in passati. Magari è utile ripercorrere questa esperienza per poter capire come affrontare i prossimi pericoli, per esempio l'inflazione, che rischia di essere determinata dall'enorme liquidità che è stata immessa nel sistema internazionale per evitare che la recessione diventasse depressione. E quindi qui abbiamo una rapida storia delle politiche monetarie degli ultimi decenni e una ricostruzione della crisi che abbiamo già dovuto affrontare. Bruni conclude ricordando che obiettivo della politica monetaria deve essere proprio la stabilità dei prezzi e dunque la lotta all'inflazione. Occorre uno sforzo maggiore, scrive, per una diffusa presa di coscienza politica dei costi dell'instabilità dei prezzi anche da parte dell'opinione pubblica più lontana dalla stanza dei bottoni. I costi dell'inflazione, aggiunge, devono entrare nei programmi di alfabetizzazione economica di tutti i cittadini e, per esempio, considerando i costi dell'arbitraria redistribuzione del reddito e della ricchezza che l'inflazione causa, mutando il potere d'acquisto dei salari, dei debiti e dei risparmi, degli oneri tributari. Naturalmente, conclude Bruni, c'è il rischio che se usciremo dalla crisi con grandi debiti pubblici la tentazione di abbandonarsi all'inflazione sarà forte. Anche qualche economista, aggiunge, consiglierà di farlo. Auguriamoci almeno che la gestione di questa tentazione sia tale da non indebolire l'obiettivo della stabilità dei prezzi, altrimenti avremo l'inflazione per sempre. Sui comportamenti pregressi e le origini remote della crisi economica e finanziaria, remote ma non troppo, vi segnalo due testimonianze interessanti. La prima è di un grande economista che per la verità non fece in tempo a vedere questa crisi perché morì nel 2006, è John Kenneth Galbraith, un mostro sacro dell'economia e della cultura americana, un liberal, cioè un economista di sinistra secondo la cultura degli Stati Uniti, di cui esce L'economia della truffa, i limiti dell'economia globale, la storia di una crisi annunciata, è pubblicato da Rizzoli, 152 pagine, 8 euro ed è tradotto da Stefano Galli. Questo libro di Galbraith è uno degli ultimi, se non l'ultimo, fu pubblicato nel 2004, quando l'economista fece i conti con la nuova fase che si era aperta agli inizi del nuovo millennio. con l'attentato alle Torri Gemelle e, come scrive Mario De Aglio nella prefazione, con la recessione nascosta che aveva posto fine a un decennio di espansione ininterrotta dell'economia americana e mondiale, che fece crollare la borsa e affondò la New Economy. Galbraith guarda e giudica con severità tutti questi fatti, non condivide l'andazzo dell'economia globalizzata, rimprovera errori di cui avremmo a lungo discusso, come per esempio la politica della Federal Reserve di tenere artificialmente molto bassi i tassi. Stigmatizza il potere delle grandi imprese e del management. Molte delle analisi, come osserva appunto Mario De Aglio, sono criticabili, ma queste osservazioni di Galbraith offrono certamente degli spunti di meditazione che possono rivelarsi utili, soprattutto negli aspetti più polemici, nelle critiche più pungenti che Galbraith rivolge all'economia dell'inizio secolo. Descrive il clima frenetico della finanza londinese un ex agente di borsa che si è convertito alla scrittura, Seth Friedman, nel libro La grande baldoria, come i ragazzi della City hanno distrutto il capitalismo globale, pubblicato da ISBN, 188 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Massimiliano Galli e Mariella Milan. Forse il sottotitolo, come i ragazzi della City hanno distrutto il capitalismo globale, è eccessivo, ma la descrizione della vita, dell'attività di questi ragazzotti che hanno dominato la finanza degli ultimi anni è azzeccata, è resa in forma giornalistica, quasi romanzata, narrativa, ma dimostra una conoscenza diretta dei meccanismi dell'ambiente nel quale si muovevano questi protagonisti. Speriamo in futuro di non dover più leggere comportamenti di questo genere, ma credo che le nostre speranze andranno deluse. Un'analisi sull'aspetto finanziario della crisi è contenuto nell'intervista di Gianfilippo Cuneo a Fabio Tamburini. Il libro si intitola Wall Street, la stangata, cosa abbiamo imparato per non perdere più soldi, è pubblicato da Baldini a Castoldi e Dalai. 150 pagine, 20 euro. L'intervistatore è il direttore del Sole 24 Ore Radio Core, l'agenzia di stampa del gruppo di questa radio, e l'intervistato è uno dei maggiori consulenti industriali italiani. I due danno vita a una lunga e molto chiara analisi sulle ragioni della crisi e sulle prospettive. Le ragioni stanno soprattutto, spiega Cuneo, nella valanga di soldi, usa proprio questa espressione, che si è riversata sull'economia internazionale negli ultimi anni e che ha contribuito a distorcere il comportamento delle banche, portate a prestare in misura sempre maggiore e a creare strumenti finanziari sempre più opachi. Perciò occorre rivedere, dice Cuneo, le regole della finanza. La finanza, spiega, funziona solo quando è collegata a fatti reali, ma ha la caratteristica e il difetto di poter essere applicata anche a prodotti collegati solo parzialmente alla realtà, come derivati, cartolarizzazioni e simili. Una finanza non regolata bene porta agli eccessi che abbiamo visto nell'ultimo decennio, di cui pagheremo le conseguenze per anni. Certo che per regolare il mercato occorre la volontà di farlo. E su questo mostra qualche scetticismo il prefatore del libro, Lorenzo Pelliccioli, il quale osserva come le democrazie occidentali, anziché seguire la strada della concertazione e dell'accordo, scrive, stanno andando sempre di più verso un rapporto diretto tra leader e popolo, cortocircuitando l'elite con sempre maggiore attenzione ai localismi e quindi con una sempre maggiore difficoltà ad assumere comportamenti virtuosi condivisi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, abbiamo parlato di crisi e della crisi finanziaria. Dalla crisi ci si può salvare anche con le nostre scelte, con i nostri comportamenti, e questo è proprio un aspetto che viene sempre più studiato e che ha dato vita a un nuovo filone di studi, l'economia comportamentale, appunto. Secondo la visione di Keynes, l'economia non è fatta soltanto di comportamenti razionali dettati dalla ricerca esclusiva del profitto, ma ci sono degli spiriti animali, come lui li chiamava, cioè delle motivazioni non economiche che servono a spiegare l'evoluzione dell'economia e le tante scelte che ciascuno di noi fa. E proprio Spiriti animali si intitola il libro che adesso vi presento, il sottotitolo è Come la natura umana può salvare l'economia, ne sono autori George Akerlof, che è stato premio Nobel per l'economia nel 2001, e Robert Shiller, che è un noto economista di Yale. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 318 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Ilaria Katerinoff. Questo libro dunque prende in esame atteggiamenti che ci spingono magari inconsciamente a certi comportamenti come la fiducia, l'equità o la corruzione o l'illusione monetaria, e pone alcune domande su alcuni temi attuali. Si riparla per esempio del potere delle banche centrali, del risparmio, dell'inflazione, del rapporto con la disoccupazione. E conclude anche questo libro sull'esigenza delle regole necessarie per tenere sotto controllo le conseguenze non volute di comportamenti imprevedibili, scrivono infatti gli autori. Un mondo così popolato di spiriti animali dà al governo l'opportunità di farsi avanti. Il ruolo del governo, aggiungono, è porre le condizioni per sfruttare in modo creativo i nostri spiriti animali in vista di un bene più grande. Il governo deve stabilire le regole del gioco. Parliamo dunque di comportamenti, non soltanto di comportamenti umani, dell'intelligenza dell'uomo, ma anche dell'intelligenza degli animali, che forse qualche cosa ci possono insegnare. Vi segnalo adesso alcuni libri proprio su questo tema, sul comportamento degli animali e in particolare di una razza che ci è molto vicina e cara. Cominciamo col libro di Danilo Mainardi, etologo ed ecologo, L'intelligenza degli animali, e l'editore Cairo, 208 pagine, 15 euro. Secondo Mainardi c'è un'intelligenza nascosta non solo negli animali più evoluti, ma anche nelle specie più primitive e più semplici, che manifestano tutte una sapienza degli istinti capace di risposte sorprendentemente raffinate, come scrive l'autore. E nel libro abbiamo tanti esempi di questo comportamento, a partire dai protozoi, che sono anch'essi capaci, scrive Mainardi, di fabbricarsi una sapienza ben più personale e privata rispetto a quella della specie. Per noi è particolarmente difficile cogliere queste manifestazioni di intelligenza, e quindi è importante, scrive l'autore, comprendere e non fraintendere gli animali, soprattutto non sottovalutarli. E si conclude questo libro avvicinandoci appunto all'animale di cui adesso parleremo, con il gatto, che è anch'esso a rischio di incomprensione per la sua natura schiva e solitaria, che non lo rende adatto alle gerarchie, le quali invece, nota Mainardi, piacciono tanto agli uomini, soprattutto se sono loro a far la parte di chi comanda. E allora le note di Katz ci introducono a questi libri sui gatti. Innanzitutto quello di un noto studioso, Giorgio Celli, Il gatto di casa, etologia di un'amicizia, pubblicato da Muzio, 128 pagine, 12 euro. Qui viene analizzata l'intelligenza del felino e soprattutto i meccanismi sui quali si forma l'amicizia con l'uomo, le cui caratteristiche Celli distilla in alcuni profili di gatto, dai quali vi propongo quello del gatto melomane. I gatti amano spesso la musica. Ho avuto più volte l'occasione di constatarlo, ma sono di gusti piuttosto difficili. Per esempio, fuggono disperatamente se nella camera si diffonde il fragore, non saprei come altro chiamarlo, di una musica rock, oppure, che so, la sfrenata fanfara dei bersaglieri. Un mio gattone maschio, scomparso da alcuni anni, prediligeva Debussy, e se le note di Pelléas e Mélisande si diffondevano nell'ambiente, subito si accoccolava sulle zampine anteriori, piegate in dentro, e si poneva in ascolto, socchiudendo gli occhi con grande beatitudine. Ma sui rapporti tra i gatti e la musica sono note diverse storielle, non si sa quanto vere, ma nella maggior parte dei casi molto verosimili. Ve ne voglio raccontare una. Il poeta francese dell'Ottocento, Théophile Gautier, oltre a far versi, era un celebre critico musicale, e succedeva spesso che dei giovani compositori venissero a fargli visita per ottenere la sua simpatia e magari il suo appoggio. Però la gatta del poeta Eponim sapeva, a quanto sembra, riconoscere i giovani d'ingegno dai semplici scocciatori, e Gautier ne apprezzava puntualmente il giudizio. Un giorno gli viene annunciata la visita di un musicista sconosciuto e Gautier è di pessimo umore. Decide di congedarlo senza tante storie e per questo si affaccia sul vestibolo dove il postulante siede in attesa. Stupore. Eponim si è sistemata contro ogni sua abitudine sulle ginocchia dell'ospite e sta ronfando beatamente. Gautier decide allora di dare udienza al giovane ed Eponim, con precognizione gattesca, non smentisce il suo intuito. Si trattava del giovane Massenet. Queste naturalmente erano invece le note di Massenet. Tanti gatti troviamo in Le più belle storie sui gatti, pubblicato da Edizioni L'età dell'acquario, 200 pagine, 14,50 euro. Qui troviamo 12 testimonianze letterarie sul gatto. e abbiamo tanti gatti, ma anche tanti geni letterari che magnificano questo grande compagno della nostra vita. Ci sono dunque Honoré de Balzac, Poe, Gottfried Keller, Théophile Gautier, Anton Chekhov, Rudyard Kipling, Bram Stoker, Edith Nesbit, Sacchi, Alfredo Cattabiani, Silvana De Mari, e poi un articolo che riguarda il rapporto con i suoi gatti di Mark Twain. Il più affascinante per me di questi racconti è stato quello di Kipling, il gatto che se ne stava per conto suo. Nel racconto siamo agli albori della civiltà, l'uomo e la donna scoprono i primi agi della vita civile, per così dire, una grotta, il fuoco. Il gatto assiste all'addomesticamento del cane, del cavallo, della mucca, sempre più sdegnato del servilismo di questi suoi compagni. Anche a lui, per la verità, piacerebbe abitare nella grotta al calduccio, ma non vuole assolutamente rinunciare alla propria indipendenza, e allora escogiterà un'astuzia per raggiungere i due obiettivi: stare al caldo ma mantenere la propria libertà, avviando delle pratiche che ci accompagneranno fino ai giorni nostri, o almeno fino a quelli di Kipling. Ecco le ultime righe del suo racconto. Allora l'uomo gettò al gatto i suoi due stivali e la sua piccola ascia di pietra, che fanno tre. E il gatto corse via dalla grotta e il cane lo rincorse su per un albero. E da quel giorno fino ad oggi, mia amata, tre uomini che si rispettino su cinque gettano sempre oggetti ai gatti ogni volta che li incontrano, e tutti i cani che si rispettino li rincorrono fin sugli alberi. Il gatto però ha il suo vantaggio nel patto: ucciderà topi e sarà gentile con i bimbi quando si trova in casa, se non gli tirano troppo forte la coda. Ma fatto ciò, e di tanto in tanto, e quando sorge la luna e cala la notte, lui è il gatto che se ne sta per conto suo, e per lui ogni luogo è uguale. Poi esce nelle piovose selve selvatiche, o su per i piovosi alberi selvatici, o su piovosi tetti selvatici, facendo ondeggiare la sua coda selvatica, e andandosene tutto selvatico, per conto suo. Il confettino. Doppio confettino gattesco con Racconti di gatti di Jean Muzzi, pubblicato da Edizioni L, 110 pagine, 14,50 €, tradotto da Gianna Masoero con le illustrazioni di Jean-François Martin. Questi sono racconti che traggono origine in tradizione di molti paesi e che sono stati raccolti e rielaborati appunto per gli appassionati più giovani di gatti. Un gatto invece troviamo protagonista, de L'inventore dei sogni di Jean McEwan, e in Audi Ragazzi, 126 pagine, 14,50 €, tradotto da Susanna Basso. Questo è il primo libro per ragazzi scritto dal noto scrittore, e troviamo qui una serie di fantastiche avventure del giovane protagonista Peter, una delle quali avrà luogo proprio all'interno di un gatto. Torniamo agli adulti e abbandoniamo i gatti per almeno un omaggio al cane. Vi propongo il libro di Edmondo Berselli, Liu, biografia morale di un cane, pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 18 €. Questo è un libro insolito sulle riflessioni anche di natura filosofica cui può dare vita la proprietà di un cane. All'inizio l'autore non ne vorrebbe sapere, non vuole tradire la sua fedeltà appunto ai gatti, ma poi si lascerà convincere e affronterà forse con leggerezza eccessiva il nuovo impegno rappresentato dall'avere appunto un cane. Sentite per esempio queste righe molto ironiche nelle quali Berselli distilla la sua cultura, che dovrebbero dargli la forza per poter trattare il suo nuovo cane. Ragazzi, vorrei spiegarmi per bene, in modo che non ci siano equivoci. Negli anni canonici o cagnonici sono stato marxiano come tutti, nel senso del giovane Marx e dei manoscritti storico-filosofici del 1848. Ho approfondito fino alle più intime postille le tesi su Feuerbach. Conosco a memoria la parte del manifesto in cui tutto ciò che è solido si scioglie in aria e la borghesia dissacra e profana e dissolve ogni aspetto della società feudale. Fase interessantissima in cui nascono serie idee di ghigliottinare in allegria intere dinastie. Mi sono laureato sulla dialettica negativa di Adorno. Cito Nietzsche in tedesco meglio di Galimberti e forse anche di Cacciari, che ha un accento un po' troppo venezian. Ho studiato le sinistre eretiche vere e le sinistre eretiche finte. Il principio speranza è l'Ursprung del dramma barocco tedesco. libro esoterico di Benjamin di cui nessuno, o proprio nessuno, ha mai capito niente, neanche il suo invidioso cugino Adorno che, non avendoci capito nulla, tentò in tutti i modi di sabotarlo criticamente, sostenendo che, insomma, non era, come dire, come giudicare, abbastanza dialettico. Ecco, non era dialettico il cugino, e neanche il libro. Quindi ho alle spalle un buon repertorio di Brecht & Weil, Marcuse e Marlene, L'Angelo Azzurro e il professor Unrat, Schoenberg e Mosè e Aron, il Pierrot Lunaire e l'Histoire du Soldat di Stravinsky, e se occorre sono in grado di parlare dell'Heidegger della svolta, anche se al momento non ricordo se era a destra o a sinistra con controcurva. Eppure della dialettica dell'illuminismo con la ratio del dominio e l'orrore di Adorno per i processi massificanti, esemplificati dall'omino che fastidiosamente e irresponsabilmente fischietta Mozart nella metropolitana. Volete allora che mi spaventi la semplice filosofia empirica di un elementare cane di cultura anglosassone? E troviamo anche degli aneddoti curiosi e gustosi, come quello di Paolo Volponi che deve partecipare a un sinedrio per valutare la richiesta di candidatura nella Democrazia Cristiana di Umberto Agnelli alle elezioni politiche. Descrizioni che purtroppo sono talora viziate da alcuni fastidiosi refusi sui nomi dei personaggi coinvolti. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Fabio Contadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.